Bene, questo era il brano sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane e trasmettiamo da Udine. Ovviamente questo è il primo giovedì per il 2024, per chi è in diretta, chi ci sta ascoltando è logico, perché il giovedì scorso non eravamo nel 2024. E che altro dirvi, che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Udine, e andiamo ora all'ascolto di questa band francese. Loro sono i Burning Bright, e da un loro album datato 2012 che si intitola Doomsday. Altra cosa da aggiungere, che sono di una cittadina, Caen, in Francia, e non credo che, a parte un album 2 anni prima e un anno successivo al 2012, credo sia una band che non esiste più. Comunque è Burning Bright. Un saluto, un buon 2024 a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Zardins Magnetics di questo giovedì 4 gennaio. Sono le 20 e 12 minuti circa. E come già detto, andiamo qui in onda dagli studi di Radio Onde Furlane, la realtà che ci ospita. Zardins Magnetics è una trasmissione autogestita. Autogestita e abbiamo, diciamo, realizziamo, voi ci state ascoltando in questo momento o in FM se siete della zona, altrimenti in podcast sia su Telegram sia su web, diciamo, il nostro blog Zardins Magnetics Radio, con la pazienza, insomma, che è necessaria per caricare il file ogni settimana. E cos'altro dire, la trasmissione realizzata da noi, che siamo così compagni e compagne dell'assemblea permanente contro carcere e repressione del Friuli e di Trieste, come sapete svolgiamo, diciamo, iniziative, insomma, attività, mobilitazioni, propaganda, agitazione partendo dalla questione del carcere, dalla massima deterrenza dello Stato contro gli oppressi e le oppresse, gli sfruttati, per arrivare in qualche maniera al cambiamento, alla trasformazione di questa società carceraria nella sua intima essenza. Dopo questa presentazione, di nuovo, insomma, vi vado a così anticipare quelli che saranno gli argomenti di questa settimana di Zardins Magnetics, di questa serata. Allora, avremo una diciamo così carrellata di aggiornamenti su attualità, situazioni, diciamo, prevalentemente questione CPR, ma anche altre cose che riguardano l'attualità, naturalmente la guerra a Gaza, e un approfondimento su una lettura, un romanzo, chiamiamolo, Che fare, il titolo, uno scrittore sovietico, sì, no, russo, Nikolaj Chernyshevsky, che poi comunque vi andremo a diciamo presentare come si deve, non in questa maniera così. Bene, direi che si può partire con l'attualità. Allora, purtroppo nessuna novità, dobbiamo dire, ci dispiace veramente per il Gesù Bambino che è stato devastato, la statuetta, ovviamente, la statuetta di Gesù Bambino devastato a Monfalcone l'ultimo dell'anno. Gli uomini, dice qui Anna Maria Cisint, gli uomini della polizia locale, della Digos e dei carabinieri sono al massimo, diciamo, delle loro attività per capire se sia stata una semplice bravata, un atto di natura politica o religiosa, un atto di gravità inaudita e una viltà estrema, il commento del sindaco. E l'invito alla delazione, l'appello dell'amministrazione comunale invita eventuali testimoni a farsi avanti, nonostante la videosorveglianza, le telecamere, eccetera, sempre accese 24 su 24, comunque si invita chi ha visto. Fino ad oggi, diciamo che il 4 ancora nessuno sviluppo, non ci risulta. Indagini in corso comunque a Monfalcone. It will be great. di nuovo in diretta qui da Zardins Magnetics. Parliamo di refusnik, i disertori dell'esercito israeliano. È importante parlarne perché è una realtà completamente censurata, completamente diciamo messa a tacere, coperta, ricoperta da strati e strati di propaganda. Che cosa sono i refusnik? Sono la contrazione di una composizione di rifiuto e del termine russo usnik, cioè prigioniero, quindi è sinonimo di dissidenza. Nel 2019 5 obiettori di coscienza sono stati detenuti in carceri militari in Israele. Nel 2020 60 studenti e studentesse firmarono una lettera di rifiuto al servizio militare. Nel 2021 almeno 300 refusnik si sono rifiutati di servire nei territori occupati durante la seconda intifada. Già nel 2003 27 piloti dell'esercito dell'aeronautica denunciavano gli attacchi legali e morali che lo Stato di Israele effettua nei territori palestinesi. Insomma, sono innumerevoli i casi di diserzione. Cosa succede quando un giovane, diciamo, in età attiva, come soldato, cittadino israeliano, rifiuta di rispondere all'obbligo, di servire l'esercito e va direttamente, in carcere? Allora, Tal Mitnik, giovane israeliano incarcerato per essersi rifiutato di partecipare al massacro, una notizia di Contre-Attack, un sito in francese. L'esercito israeliano commette attualmente a Gaza e in Cisgiordania uno dei peggiori massacri della storia recente. Per eseguire queste violenze lo Stato coloniale utilizza la sua gioventù, la quale deve effettuare 32 mesi di servizio militare obbligatorio per i maschi, 24 mesi per le femmine, salvo nei casi di esenzione religiosa. Per chi rifiuta di indossare la divisa c'è la prigione. Tutti gli anni alcuni giovani rifiutano il servizio obbligatorio e sono quindi incarcerati. È il caso oggi di Tal Mitnik, che ha appena rifiutato di arruolarsi nell'esercito israeliano per andare a massacrare i palestinesi. Non ha raggiunto la propria unità né risposto al proprio ordine di coscrizione. Una scelta molto coraggiosa in un clima di propaganda di guerra totale e con un governo fascista che mente e irregimenta la popolazione. Il 26 dicembre, quindi l'altra settimana in pratica, Tal Mitnik ha dichiarato al tribunale, che lo giudicherà per la sua disobbedienza, ha dichiarato così: rifiuto di essere arruolato, di partecipare a una guerra criminale a Gaza. Credo che un massacro non risolva un massacro, la violenza non risolve la violenza. Poi è andato in cella, in una delle carceri militari israeliane, per 30 giorni di detenzione per non sottomissione. Una manifestazione è stata organizzata in suo sostegno con dei cartelli contro la guerra. In novembre il ragazzo spiegava che l'esercito del suo paese si fonda sull'oppressione del popolo palestinese e io rifiuto di far parte di questa oppressione. Al posto di questo continuo a militare in favore dei diritti dell'uomo. O ancora, rifiuto di accettare l'idea secondo la quale uccidere dei civili a Gaza garantirebbe la sicurezza di chi che sia. Ciò non apporta sicurezza a nessuno, né alla popolazione di Gaza né alla popolazione di Israele. Credo che la sola strada verso la sicurezza risieda nella coesistenza. Come lui, altri giovani israeliani coraggiosi tengono testa al militarismo e al colonialismo. In seguito a questo periodo di detenzione, l'esercito può convocare di nuovo la persona refrattaria e, in caso ulteriore rifiuto, rimetterla in cella, eccetera. Insomma, tutti questi giovani, che rifiutano di sottomettersi, all'ordine di andare soldati, inanellano vari soggiorni in prigione. malgrado una società, conclude così Contrattacco, malgrado una società inquadrata militarmente e in stato di guerra permanente, una parte della gioventù di Israele si rifiuta di obbedire e ne paga un prezzo salato. I media francesi non fanno mai ascoltare la voce di questi giovani che disobbediscono e rifiutano il colonialismo del loro stato. Sta a noi farlo. Bene, sottofondo stiamo ascoltando anche ora, ma abbiamo ascoltato anche prima, questa band tedesca, anche se c'ha questo nome francese, Sabot Noir, sarà da pronunciare in francese Sabot Noir, comunque band della zona di Monaco, anzi per l'esattezza della cittadina molto conosciuta Dachau, Sabot Noir. Eccoci qui di nuovo, sono le 20:29, Zardins Magnetics, ancora qualche aggiornamento, passiamo diciamo ai CPR, preambolo, cioè premessa, naturalmente il periodo delle feste è sempre come ogni anno un periodo infernale in questi luoghi infami, come anche delle prigioni. Ci sono altre emerse notizie questi giorni di numerosi più di una rivolta sia in Sicilia sia altri posti, situazioni al limite naturalmente della sopravvivenza. Nel caso del CPR, del centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, è emersa questa notizia dell'ultimo dell'anno da una realtà, diciamo, che ha pubblicato, appunto, che ha diffuso questa notizia, una realtà non del luogo qua, ma comunque noi rimandiamo, insomma, la diffondiamo. E invece che allora, naturalmente il CPR di Gradisca adesso, al momento attuale, noi è già da un po' che non ci siamo più presenti. Comunque sappiamo che è strutturato in due ali, uno sul lato statale, diciamo, uno sul lato campagna. Queste due ali a loro volta sono formate da strutture a gabbia in plexiglass. Ogni, diciamo, cella ha un accesso a delle piazzole all'esterno, dove, insomma, senza plexiglass, questi accessi, ecco, il giorno di Capodanno è stato deciso così, in maniera naturalmente autoritaria, di chiuderli alle 21, in modo che non rompessero i coglioni e si potesse i gestori, le forze, insomma, quelli che sono presenti lì, le operatori vari, chiamiamoli, sbirri, insomma, di questo lager, altri manigoldi, di poter stare in pace, no? Chiaramente erano di turno, e i prigionieri non ci sono stati, non ci stanno, insomma, questa decisione, e cominciano a far casino, fanno battiture per poter prendere una boccata d'aria almeno la sera dell'ultimo dell'anno, stare anche loro in pace, diciamo, per quello che può essere. Immediatamente hanno chiamato la celere, per chi, tra l'altro, si vede molto molto spesso, troppo spesso in questa in influente città ai margini dell'impero, ma sta di fatto che c'è sempre sta camionetta della celere che gira e che sosta anche davanti qua nel piazzale qua, dove c'è un albergo, inspiegabilmente, insomma, a spese naturalmente dei contribuenti, ma al di là di quello è evidente che gli hanno stanziati, insomma, per andare al CPR sicuramente. Non sappiamo quale altro impiego possono avere la celere da queste parti, essendo anche che c'è comunque il presidio al confine, insomma, Schengen è sospesa, quindi ci sono forze di polizia in più in questi ultimi due mesi qua in Friuli, Venezia Giulia, e sono occupati anche dei posti a dormire da questi buzzurri qui in divisa. E niente, la celere, diceva questa corrispondente qui su Radio Onda d'Urto, diceva la celere, quella arriva celermente, velocemente, immediatamente, come c'è un inizio di protesta, fanno entrare questi gorilla qui, insomma, che picchiano. Invece, quando è il caso invece di far entrare il 112, il 118, il pronto intervento, il pronto soccorso ospedaliero, eccetera, lì si passano sempre ore, se non appunto mezze giornate, perché ci vuole il via libera di tutte le autorità. Altre criticità sono state registrate anche al CPR Corelli, di via Corelli a Milano, che, come avete appreso, insomma, saprete dalla stampa, è sotto commissariamento, perché c'è stato tutto un giro di intrallazzi, sono sotto inchiesta, è stata sospesa l'appalto lì, e quindi c'è questo commissariamento, ma non è privo di gestore il CPR, la struttura, però ci sono dei prigionieri dentro, non è vuoto, cioè non, adesso non sappiamo, insomma, però quelli che c'erano sono rimasti. Non credo che ci siano nuovi. Io adesso non credo che ci siano nuovi, ecco, arrivi, però quelli che c'erano dentro ci sono ancora. È l'unica soluzione per poter cedere velocemente, insomma, liberarsi di questa detenzione amministrativa per i prigionieri è purtroppo per loro farsi ricoverare in pronto soccorso, perché lì poi non c'è appunto sorveglianza e possono andarsene in pace. Invece appunto no, invece almeno 7 persone hanno ingerito lamette e altri così pezzi, insomma, di oggetti per poter sì, per naturalmente per avere un'emorragia interna ed essere ricoverati in struttura sanitaria e poi dileguarsi. Altra situazione, quella, ma magari mettiamo un ultimo brano e dopo passiamo all'approfondimento di stasera, un aggiornamento anche su Trapani. Keskus Tykebos, Tulli Klubin avalta 30 CMX, radiopuhelimen! No means no, Kanadasta! Aatosta! Fuusiojatsia! Mummoja! Small boys! Käskiviikko! 30. päivä 5. Tulli kamari! Have you heard the news? The dead one. You hear that sound? You hear that sound? Like fingers scratching underground. You hear that sound? That slamming door. I've fought it all my life, and I can't fight it anymore. It's catching up. I'm for a dead. How do you hide from something you have found? You hear that sound? That scratching sound? Is it better to be lost or found? You can't ignore it. You can't talk it away. You can't drink it away. You can't. Eccoci sempre qui da Zardins Magnetics, ultima insomma contributo informativo di questa sera per quanto riguarda il CPR, una battitura che ha avuto, si è, insomma, svolta, si è avuto luogo, insomma, è stata una bella reazione da parte dei detenuti del CPR di Trapani in Sicilia il 17 dicembre scorso, e andiamo a leggervi così un pezzo di comunicato da Sicilia No Border, noblogs.org. Ci siamo messi e messe di fronte alle grate gialle intenzionate a star lì, prima un volantinaggio qualche strada più in là per raccontare a chi passava che c'è altro in questo mondo rispetto al poter passare una domenica di sole al supermercato. Ci sono persone rinchiuse che resistono, c'è la possibilità di non lasciarle da sole, mettersi fuori da quella prigione, il minimo che abbiamo sentito di fare di fronte alla sua violenza, alla polizia che vi agisce indisturbata, che picchia violenta e impunita, come hanno urlato da dietro le sbarre. Allunga i tempi di detenzione, nega ogni possibilità, anche meramente legale, di provare ad andarsene. I CPR siciliani sono quelli da cui lo Stato italiano deporta di più. Da Trapani, come anche da Caltanissetta, martedì e giovedì parte un autobus per l'aeroporto di Palermo. Albastar, la compagnia che più spesso riceve i soldi per fare i voli di deportazione in Tunisia. La scorsa domenica eravamo inaspettati, ma siamo stati subito calorosamente accolti da chi è detenuto. Certo, non c'è stata solo la musica, le parole di conforto, i fratelli e sorelle ricevuti da dentro. Ci sono stati i sordi e potentissimi colpi inferti a risuonare contro il nostro battere sulle barriere in metallo. Due camionette di militari, due di Celere e una di carabinieri sono giunti a dare manforte. Manforte alla repressione. Abbiamo sentito la rabbia e il timore che entrassero a sedare le urla, a mettere a tacere le 120 persone recluse lì dentro. Alcuni sono lì da più di 3 mesi, provengono principalmente da Tunisia e Albania, ma ci sono anche gambiani. Raccontano di psicofarmaci dati di nascosto, messi nei pasti, in inverno senza riscaldamento. A parentesi, anche a Gradisca da inizio dicembre non funziona il riscaldamento, mi ho dimenticato di aggiungerlo prima. L'avvocato, quando va bene, è d'ufficio, ovvero qualcuno che spesso sa poco o nulla di leggi sull'immigrazione e non prova neanche a farti uscire. I contatti con il fuori di fatto impossibili, 5 euro per una telefonata di 4 minuti quando decidono di fartela fare. Più persone da quando sono dentro non hanno potuto avvisare nessuno, famiglie, amici, che naturalmente gli amici e le famiglie sono in Italia normalmente. Scomparsi in mare, scomparsi in questi luoghi, si infligge dolore non solo a chi è rinchiuso ma anche agli affetti fuori. È una macchina che produce agonia e che va fermata, inceppata. La speranza viene da dentro, va resa possibile anche da fuori. Domenica per 6 ore l'isolamento si è rotto, si è mostrato che è possibile comunicare e starsi vicini, che non possono controllare tutto. Domenica da dentro e da fuori si è gridato assieme il proprio odio contro le prigioni e il proprio desiderio di curia, libertà. Liberté et d'abord dans nos cœurs. La libertà non ci fa paura. L'indomani un amico è uscito, l'indomani una rivolta in corso. Alcune compagne e compagni contro le frontiere e le galere. Trapani, questo è 18 dicembre 2023. We'll be right back. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Milano dal loro album datato 2016 si chiama Oblio. Loro sono i Warpath, un attimo prima avevamo ascoltato, prima dell'ultimo intervento, una band storica canadese, i No Means No, ma rimaniamo all'ascolto di questi Warpath. Sì, anch'io vi saluto. Allora, come così per questa prima giornata di The Rhythm Magnetics del 2024, ho pensato di proporre una lettura. La lettura di un libro che anch'io io stessa sto leggendo con interesse e anche godimento. Allora, si tratta del libro Che fare, che è proprio un romanzo, di Nikolaj Chernyshevsky, è un libro che è stato pubblicato nel 1863 sulle pagine della rivista russa Il Contemporaneo. Allora, questo testo Che fare è noto soprattutto per essere il romanzo rivoluzionario dell'Ottocento russo, e si tratta della storia di una giovane ribelle e di un terzetto di pericolosi e amorali nichilisti che entrano in relazione con questa Vera Pavlovna, così si chiama la giovane ribelle, in varie forme. Ma vediamo un po', prima di tutto, chi è Nikolaj Chernyshevsky. Allora, nasce nel 1828 a Saratov, che è una città portuale a 900 km a sud-est di Mosca, una città lungo il fiume Volga. È figlio di un pope, è un plebeo, studia in seminario come succedeva insomma a quei tempi, poi dalla provincia riesce a trasferirsi a San Pietroburgo e si iscrive all'università, contemporaneamente anche lavorando, essendo appunto un plebeo. È abituato a una vita austera e ha un sincero entusiasmo per la propria educazione intellettuale. E che cosa caratterizza questo giovane che poi appunto diciamo diventa giornalista e appassionato di filosofia? Ciò che lo caratterizza è che sentiva l'urgenza di conciliare teoria e prassi, di diffondere le idee politiche nelle quali credeva fermamente e di fare proseliti. Quindi diciamo si prefigge queste tre azioni. I tumulti europei del 1848 lo stimolano, lo sollecitano a considerare la via rivoluzionaria. E vediamo che cosa dice dell'impegno diciamo sociale. La via della storia non è il marciapiede della prospettiva Nevsky, va tutta attraverso i campi, ora polverosi, ora fangosi, ora attraverso paludi, ora attraverso la boscaglia. Chi ha paura di impolverarsi e di lordarsi gli stivali non dovrebbe dedicarsi alle attività sociali. È un'attività benefica per le persone quando pensi davvero ai benefici delle persone, ma non è esattamente un'attività pulita. Allora, dopo la laurea a San Pietroburgo, si trova appunto a San Pietroburgo, ritorna a Saratov, nel paese d'origine, per svolgere il lavoro di insegnante, mettendo in pratica anche nel suo insegnamento questi principi atei e materialisti sui quali si era formato. E poi vabbè, si sposa, comunque già diciamo al suo rientro nel paese d'origine teme quello che poi gli capiterà, e cioè di finire in carcere. Infatti dice alla moglie: continuo a pensare che devo aspettarmi da un momento all'altro l'arrivo dei gendarmi che mi portano a Pietroburgo e mi sbattono dentro per chissà quanto tempo. Qui faccio cose che puzzano di lavori forzati, dico certe cose in classe. Quindi insomma ha consapevolezza, diciamo, di essere, di vivere una condizione così di rischio per il regime zarista. E tra le varie vicissitudini, insomma, continuando a insegnare eccetera, barcamenando, si riesce a scrivere la tesi di dottorato, che nel 1855, e la tesi si verterà sui rapporti estetici tra arte e realtà. E praticamente Chernyshevsky sostiene che il bello non esiste solo nell'arte ma anche nella realtà, anzi che il bello è la vita come dovrebbe essere. E insomma, in questa tesi poi polemizza, esprime le sue, così, la sua polemica nei confronti dell'idealismo tedesco, e invece esprime la sua vicinanza con il pensiero del filosofo materialista Ludwig Feuerbach, che appunto nel regime dello zar Nicola I era praticamente vietato anche solo nominare. E vabbè, comunque riesce alla fine a dare a prendere questo diploma, insomma, di dottorato. Però, cioè, il corpo docente dell'università glielo accetta, però il ministro dell'istruzione lo rifiuta. Contemporaneamente inizia a collaborare con la rivista Il Contemporaneo, che era una delle riviste più impegnate politicamente dell'epoca. E che cosa succede però? Nel 1862 viene sospettato di attività sovversiva, viene arrestato e portato alla fortezza di Pietro e Paolo in diciamo carcerazione preventiva. Lì si trova isolato nella sua cella, è limitato nei contatti con l'esterno ed è sottoposto al divieto di continuare l'attività pubblicistica. Allora decide di come azione, insomma, capisce che o la va o la spacca, e in pochissimi mesi, cioè dal 14 dicembre del 62 al 4 aprile del 1863, scrive questo libro, Che fare. E quindi lo scrive dentro il carcere, e praticamente cioè lo scrive così velocemente perché capisce che quando verrà condannato gli proibiranno definitivamente di pubblicare, quindi sarà spacciato da questo punto di vista. E quindi cosa fa? Ogni volta che finisce un capitolo lo invia direttamente alla commissione inquirente, insomma, che la commissione della censura praticamente, che poi una volta analizzato lo inviava a questa rivista Il Contemporaneo. E così, insomma, riesce in questa maniera, quindi questo manoscritto riesce ad uscire dal carcere in maniera abbastanza rocambolesca, nel senso che siccome il romanzo non è un libello, non è un'invettiva, non si presenta come un'invettiva politica, si presenta come quasi un'innocua opera di intrattenimento, cioè una storia d'amore praticamente, però con tutta una serie di poi riflessioni su mille cose, ma spezzettandolo in singoli capitoli, diciamo che i censori, con la che non brillano, insomma, per così acutezza di sensibilità artistica, ma nemmeno per acutezza di intelligenza, si sa, si perdono, non capiscono bene, insomma, la portata, diciamo, politica dell'opera. Allora, in verità c'è un censore che in qualche maniera, diciamo, capisce sta roba, è un funzionario del Ministero degli Interni, e infatti definisce l'opera un'apologia della mentalità e delle condotte dei nichilisti e dei materialisti, che amavano definirsi uomini nuovi. Però poi alla fine un altro funzionario, insomma, che è più un burocrate, così non si accorge di sta roba, cioè si limita a mettere i timbri, e quindi l'opera riesce a uscire. Sì, scusate, sono raffreddata, quindi ogni tanto mi viene un attacco, e quando mi viene un attacco alziamo la musica. Allora, dicevo che non si tratta della forma di un libello polemico, insomma, tipico, diciamo, della pubblicistica politica. Si tratta di un'opera che è quasi un'opera, appare quasi come un'opera di intrattenimento. Infatti Chernyshevsky stesso dice: il tema del romanzo è l'amore, dice proprio nel corso del libro. Il personaggio principale è una donna. È una bella cosa, anche se il romanzo di per sé fosse brutto, dice la lettrice. È vero, dico io. Allora, ma l'avventura di questo manoscritto non finisce con il superamento, diciamo, dello scoglio della censura, in quanto uno dei membri del contemporaneo di questa rivista, mentre, insomma, deve trasportare ha in mano questo manoscritto completo, e per disattenzione, insomma, per fatalità, lo smarrisce, cioè gli cade dalla tasca mentre è fuori dalla stamperia, e perde questo manoscritto. Quindi gli viene un infarto, un mezzo infarto, insomma, in redazione non sanno cosa fare, temono che questo manoscritto venga trovato da qualche così buon tempone e che venga magari venduto su una bancarella a 4 lire, insomma, anzi a 4 copechi, e tra l'altro in questa maniera la redazione avrebbe perso ogni possibilità di pubblicarlo, e quindi decidono di fare una roba che rischia di mettere ancora più a repentaglio la possibilità di pubblicazione, cioè pubblicano un annuncio sulla Gazzetta della Polizia di San Pietroburgo, dove offrono 50 rubli d'argento a chi avesse riportato il manoscritto. Per colpo di culo, invece della polizia, si fa vivo un impiegato che effettivamente ha ritrovato il manoscritto sgualcito, e così questo prezioso manoscritto ritorna nelle mani dei redattori del Contemporaneo, e viene pubblicato a puntate nei numeri di marzo, aprile e maggio del 1863. Ecco, quindi appena viene pubblicato, abbiamo visto marzo, aprile, maggio 1863, che fare, torna tra le grinfie degli organi di censura, perché si accorgono dell'errore, e quindi ritirano tutte le copie, insomma, stampate. Però ormai le copie si erano diffuse e quindi continueranno a circolare come samizdat, cioè come stampa clandestina manoscritta da vari copisti, insomma, che si prendono in carico di fare questa roba. E infatti riapparirà in libreria solamente nel 1905, quindi dopo un bel po' di anni. E tra l'altro il libro è contemporaneo, diciamo, cioè viene pubblicato, scritto e pubblicato nello stesso decennio in cui compaiono Oblomov, di Goncharov, Padri e figli di Turgenev, Delitto e castigo di Dostoevskij, Guerra e pace di Tolstoi. Perciò diciamo che appare in un decennio in cui ci sono delle opere super importanti e che magari dal punto di vista, diciamo, artistico sono incomparabili rispetto a Che fare, o comunque vengono considerate incomparabili rispetto a Che fare. Però questo romanzo riesce ad avere una influenza, un'incisività presso la gioventù rivoluzionaria molto importante, e questa cosa viene riconosciuta, per dire, anche da Kropotkin. E allora, dicevamo, si tratta di della storia di una giovane ribelle, appunto Vera Pavlovna, e di questo terzetto di pericolosi e amorali nichilisti. E si tratta di Lopukov, che è il primo marito di Vera Pavlovna, Kirsanov, che è il secondo marito di Vera Pavlovna, e poi sono amici, molto molto amici, Lopukov e Kirsanov, e poi di Rachmetov, che è questo terzo, diciamo, terza figura importante che viene così illustrata in maniera dettagliata, e che proprio è incarna, diciamo, il personaggio del nichilista, però in maniera diversa da come viene intesa da era stata descritta, intesa da Turgenev nei Padri e figli. E allora Rachmetov, bon, è un personaggio anche divertente, diciamo, sono tutti personaggi molto che è molto così piacevole seguire, e viene anche detto il rigorista, e anche viene definito mostro di tetraggine per il suo rigore, per la sua profilo anche di così ascetismo, diciamo, laico. E allora va detto che, appunto, Che fare viene scritto anche l'autore sente la necessità, quando esce Padri e figli di Turgenev, che parla dei nichilisti, che scrive dei nichilisti, Nikolaj Chernyshevskij ha due alternative. Lui è un critico, tra l'altro, letterario, no? È considerato uno tra i critici più radicali, diciamo, della letteratura russa. Difatti Turgenev lo definisce la vipera, cioè lo odia praticamente. E quando esce questo Padri e figli, lui dice, cioè, o devo fare una recensione, tipo, oppure devo scrivere Che fare, e scrive Che fare, perché praticamente intende, oltre a altre cose, però intende diciamo demistificare la figura dei nichilisti. Cioè lui dice, ritiene che Turgenev abbia nel romanzo di Turgenev c'è Bazarov, che è appunto un nichilista, cioè uno studente di scienza, di medicina, e che nega tutti i fondamenti della vita e della moralità della società nobiliare, e insomma molto radicale, molto esistenzialmente anche molto, molto radicale. E però, appunto, Turgenev lo fa, tra virgolette, finire male, cioè muore di tifo, muore comunque incompreso da tutti quelli che lo circondano, mentre appunto Chernyshevskij sostiene che in questo tipo di romanzi c'era un giudizio, diciamo, una disapprovazione, se non un disprezzo, della realtà che vivevano i nichilisti, oltre che delle loro idee, delle idee dei nichilisti. E infatti Che fare parla anche di nichilisti, ma diciamo che questi personaggi vivono tra di loro, cioè parla di praticamente di come queste persone vivono negando il modello di vita tradizionale, affermando principi di socialisti, diciamo, di organizzazione del lavoro, e anche sperimentando regole di comportamento, ad esempio basate sul cameratismo e sull'uguaglianza tra i sessi, e lo sperimentino tra di loro. Cioè tutto il romanzo non è insomma, è rivolto a questa cosa qua, a mettere in pratica, diciamo, le proprie idee. Ma era lo stesso autore che aveva questa si riprometteva questo. Allora, Chernyshevsky ritiene, è appassionato di filosofia, ritiene che le modalità dialettico argomentativa della filosofia vada applicata, insomma, non solo alle dispute sul linguaggio ma anche sulla verità. E cioè lui dice: io vorrei usare la mia arte, che poi dice: mamma, io magari non sono neanche tanto un artista ma sono un pensatore, comunque vorrei usare la mia arte per trasformare i lettori in rivoluzionari consapevoli. E quindi praticamente decide di cioè valuta la pubblicistica come uno strumento utile per spingere una generazione all'azione, a mettersi in gioco, a proprio ad agire, insomma, il cambiamento, non solo a riflettere, a meditare, a così cogliere la complessità della vita, ma proprio a buttarsi, diciamo, a buttarsi nella sperimentazione di una dimensione rivoluzionaria di vita. E allora, cosa ancora si può dire? Perché volevo anche leggere dei pezzi, ma non so se si riesce, vediamo. Comunque, ma beh, non sto a dire robe di filosofia, perché insomma poi insomma, comunque è inutile stare a dire troppe cose, nel senso che è bene leggere, il libro va letto, sicuramente va letto. Dicevo di questi uomini nuovi, appunto, di questa, diciamo, valorizzazione dei nichilisti come uomini nuovi e quindi come soggetti politici che hanno delle, che vogliono cambiare il mondo, la vita, e appunto la loro esistenza è molto lontana dalle forme tradizionali in cui si manifestava al tempo la pratica sociale quotidiana, e perché viene introdotta continuamente, diciamo, nelle loro vicissitudini la luce della coscienza. E allora la loro coscienza permette loro di evitare motivazioni egoistiche, di liberarsi dal gioco delle false convenzioni sociali, di rispettare gli altri. E c'è nel libro anche un modello di Vera Paulovna decide di organizzare, lei in realtà è insegnante di musica, però a un certo punto decide di organizzare una sartoria, e lo fa secondo dei principi, appunto, organizzativi socialisti paritari. Quindi crea questa, insieme ad altre tante altre donne, insomma, questa attività, e appunto questa attività viene descritta in maniera molto precisa, ed è la prima rappresentazione nella cultura russa, nella letteratura russa, di una forma di produzione socialista, cioè descritta schiettamente, insomma, e direttamente, anche con dovizia di particolari che dà l'idea, secondo me, della praticabilità anche di questa impresa. Difatti, appunto, l'obiettivo dell'autore è anche quello di presentare delle vicende che sono praticabili, che sono riproducibili, diciamo, da cui si può prendere spunto. Sì, appunto, da così leggendo dall'introduzione del libro, il fine principale era quello di instillare l'ideale rivoluzionario nel pubblico, e scrivendo da prigioniero nella fortezza di Pietrepaolo non poteva che limitarsi ad auspicare per i rapporti umani quella dignità e quella libertà che a lui erano negate, rappresentandole nel suo romanzo utopico. E allora va detto anche di, vabbè, è un romanzo d'amore, dicevo, infatti lui dice che l'amore è una specie di cemento nelle relazioni umane. E questo romanzo viene esaltato letteralmente, cioè viene apprezzato moltissimo da Lenin. Difatti, allora vediamo cosa dice Lenin. Comunque si ispira proprio, infatti anche un testo importante di Lenin, che è del, però, del 901-902, si titola proprio Che fare. E lui dice, dopo aver letto questo libro, aspettate che cerco, lui dice, non me lo ricordo più, dov'è? Allora, beh, comunque, praticamente dice che di averlo letto a 14, ah, eccolo qua, dichiara: il romanzo è troppo complicato, troppo pieno di idee per essere compreso e valutato in tenera età. Io stesso ho provato a leggerlo quando avevo circa 14 anni, era una lettura del tutto inutile e superficiale, ma dopo l'esecuzione di mio fratello, sapendo che questo romanzo era uno dei suoi libri preferiti, mi misi a leggerlo per bene e ci stetti sopra non pochi giorni, ma intere settimane. Solo allora ho capito la sua profondità, è una cosa che può accendere l'energia di una persona per tutta la vita. Vabbè, questa è quasi una curiosità. Comunque, il fratello di Lenin, io non lo sapevo, fu impiccato per un attentato contro lo zar Alessandro III nel 1887, era il fratello maggiore di Lenin, e questo libro, appunto, Che fare, era uno dei suoi preferiti. E niente, non so. Mettiamo una musica e vediamo se riusciamo a leggere almeno 5 minuti. Sì, allora proviamo a leggere giusto proprio qualche pezzetto. Allora, diciamo che leggiamo una specie di diatriba, una specie di, cioè, un colloquio tra Vera Pavlovna e Dmitri Sergei Lopukhov, il primo, diciamo, colloquio da promessi sposi. Allora, perché si sono promessi sposi questi due? Perché si conoscono, lui è precettore del fratello minore di lei, lei vive, è molto infelice all'interno della famiglia perché è oppressa dalla sua famiglia e sta per essere obbligata a sposare un essere che lei non vuole sposare, di ceto superiore al suo, e vuole quindi, lei dice, uscire dal sotterraneo. Poi il libro, nel libro ci sono anche molti sogni che questa Vera Pavlovna fa ogni volta che ci sono dei momenti cruciali, diciamo, della vita. E appunto Lopukhov cerca di aiutarla cercandole dei lavori, ma chiaramente nella società del tempo era impossibile per una donna lavorare contro la volontà dei genitori fuori da casa, cioè avrebbe significato uscire completamente dalla società o comunque anche rischiare penalmente. E quindi non riesce in questo intento e quindi pensa, ci sposiamo perché ci sposiamo noi due perché marito e moglie non possono essere separati, quindi sarete libera. E come? Chiede Vera Pavlovna. Ecco come, Verochka, adesso è già la fine di aprile, a inizio luglio saranno conclusi i miei lavori per l'Accademia. Devo portarli a termine in modo che noi due si abbia di che vivere. Allora uscirai dal sotterraneo. Pazienta un 3 mesi ancora, magari anche meno, ne verrai fuori. Otterrò un posto da medico. Lo stipendio non è un granché, ma non importa. Avrò qualche cliente privato, quanti ne sono necessari, e tireremo avanti. Ah, caro, ci servirà poco, pochissimo, solo che io così non voglio. Non voglio vivere a tuo carico. Io do le mie lezioni di musica, ma ora di sicuro le perderò. La mamma dirà a tutti che sono una scellerata. Me ne troverò altre. Riuscirò a mantenermi, sì. È necessario fare così, giusto? In fondo non è che devo vivere con i tuoi soldi, no? Chi te l'ha detto, mia cara amica Verochka? Ah, chiede pure chi me l'ha detto. Ma non eri proprio tu a parlarne sempre? E nei tuoi libri? Una buona metà di quello che c'è scritto riguarda proprio questo. Nei libri te ne parlavo io, ma quando mai, Verochka? Ah, quando? E chi mi ha detto che tutto si fonda sui soldi? Chi me l'ha detto, Dmitri Sergeevich? Beh, e dunque? Pensi che sia così stupida da non riuscire, secondo l'espressione dei vostri libri, a trarre una deduzione da una premessa? Ma quale deduzione? Chi ti capisce è bravo, mia cara amica Verochka. Ah, che furbo! Vuole essere un tiranno. Vuole che io sia la sua schiava. No, signore, non sarà così, Dmitri Sergeevich. Chiaro? Tu spiegati e mi sarà chiaro. Tutto si fonda sui soldi, dite voi, Dmitri Sergeevich. Chi ha il denaro detiene anche il potere e il diritto, dicono i vostri libri. Quindi, finché una donna vive a carico del marito, dipende da lui. Non è così? Credete che non lo capissi, che sarei stata la vostra schiava? No, non vi permetterò di essere il mio tiranno. Voi volete essere un tiranno buono, benefico, ma io non voglio, Dmitri Sergeevich. Beh, tesoro, e poi come sarà la nostra vita? Tu taglierai la braccia e gambe alle persone, gli darai da bere certe schifose misture, in quanto era medico, mentre io impartirò lezioni di pianoforte. E per il resto, come sarà la nostra vita? Vabbè, poi segue tutta una serie di battibecchi su varie questioni, per cui Lopukhov si offende e dice: boh, ma allora se io mi dai del tiranno, eccetera, quindi di tu come deve essere la nostra vita, come pensi di vivere, insomma, eccetera. E lei glielo dice, cioè lei, insomma, dopo aver parlato di varie cose, glielo dice: Ah caro, ti ho teso un tranello e tu ci sei cascato in pieno. Non volevi dirmi come avremmo vissuto insieme. Per primo mi hai raccontato tutto, ci sei cascato. Ascolta allora come sarà la nostra vita in comune, stando alle tue stesse parole. Primo, avremo due camere, la tua e la mia. E una terza stanza in cui prenderemo il tè, pranzeremo, accoglieremo gli ospiti che verranno a trovare tutti e due e non solo te o me. Secondo, non mi permetterò di entrare in camera tua per non seccarti. Anche Kirsanov, l'amico fedele, non si permette, ecco perché non litigate. Tu idem nella mia. Questo è il secondo punto, adesso il terzo. Ah caro, ho dimenticato di chiedertelo. Kirsanov si impiccia dei tuoi affari o tu dei suoi? Avete il diritto di farvi domande a vicenda? Ehi, ma adesso lo so perché ti rimballo, Kirsanov. Non te lo dico. No, io lo odio lo stesso e non dirmelo, non serve. Lo so pure da me. Non avete il diritto di chiedere nulla l'uno all'altro. Perciò, terzo, io non avrò il diritto di chiederti nulla, caro. Se avrai voglia o bisogno di dirmi qualcosa riguardo ai tuoi affari, sarai tu a parlarmi per primo. E idem viceversa. Ecco tre regole. E poi... Sì, cara Verochka, a parte gli scherzi, la cosa migliore è davvero vivere come dici tu. Però da dove le hai prese queste idee? Io le conosco, sì, e ricordo dove le ho lette, ma sono libri che non possono capitare nelle mani di signorine come te. Su quelli che ti ho dato io, questi particolari non c'erano. Li sai per sentito dire e da chi? Quasi di sicuro io sono la prima persona per bene che hai incontrato. Ah caro, ma secondo te è così difficile arrivarci da soli? Ho visto con i miei occhi cos'è la vita familiare. Non parlo della mia famiglia, è troppo fuori dal comune. Ma ho anche delle amiche, ho frequentato le loro famiglie. Dio mio, quante cose spiacevoli tra marito e moglie. Non te lo puoi immaginare, caro. Verochka, invece me lo immagino. Sai che penso? Le persone non dovrebbero vivere nel modo in cui vivono, sempre insieme, sempre insieme. Bisogna vedersi solo per qualche questione, o quando ci si riunisce per riposare e per divertirsi. E conclude Nikolaj Chernyshevsky. Così parlarono tra loro. Un colloquio, per essere il primo da promessi sposi, piuttosto strano. E si strinsero la mano. Adesso abbiamo ascoltato gli Against Me, che tra l'altro anche sono ora in sottofondo. Poi, per così ricordare le band che abbiamo ascoltato, perché magari durante gli interventi ne abbiamo ascoltato più di una, appunto, a parte questi Against Me, abbiamo ascoltato una band, i Wetflix, e poi gli Emil and the Sniffers. che appunto Wetflix proprio sono tutte registrazioni di questo ultimo anno 2023, l'anno scorso, band statunitense, mentre Emil and the Sniffers erano una band australiana. Bene, siamo anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che ricordo ogni giovedì in diretta radiofonica qui su, dai 90 MHz e dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, appunto dalle ore 20 alle ore 21:30, ma siamo proprio al termine, mancano pochi minuti alla fine. E ricordo i nostri contatti, che sono appunto chi volesse scriverci tramite posta elettronica, liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Potete riascoltare questa trasmissione, ma anche quelle delle giovedì passate, delle edizioni passate, nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Salutiamo tutti, salutiamo in particolare anche chi ci ascolterà domani sulla web radio dalle ore 17 in replica su Radiazione. E ora ci salutiamo, vi faccio ascoltare uno, forse due brani, ma non credo, di questa band che tra l'altro anche in precedenza abbiamo ascoltato durante un intervento. Loro sono questa band austriaca si chiamano i ONU, ovviamente un acronimo, IONU, non saprei dirvi cosa significa. Comunque il loro album Final Explosion dall'Austria. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Let's go.